Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Franco Tedi. La birra Menabrea come Barolo e Kashmir. Di Anna Marino. Birro Barolo? Beh, una domanda alquanto imbarazzante per un produttore di birra. Io dico birra, sono 6 generazioni di una famiglia di birrai e da 42 anni vivo dentro una fabbrica di birra, quindi devo dire birra. Scioglie subito il dilemma Franco Tedi, amministratore delegato di Birra Menabrea S.p.A., quinta generazione della famiglia industriale, anche se ammette che quella tra birra e Barolo sia una battaglia ad armi pari tra due qualità assolute. E per provare che il duello spesso sia solo teorico, racconta un aneddoto divertente. In occasione di un vertice italo-francese a Torino fu offerto a Chirac, notoriamente grande estimatore e bevitore di birra, sia un magnum di Barolo che della birra Menabrea durante la convivialità del pasto. E la stampa locale intitolò l'articolo «Chirac preferisce la birra al Barolo». Se non che ricevemmo qualche telefonata da storici clienti piemontesi, i quali lamentavano di non conoscere il fatto che birra Menabrea producesse anche una birra al Barolo. Quindi credo che questo sia un aneddoto abbastanza divertente per dimostrare quanto vicini sono questi due prodotti. Nasce nel 1846 lo storico birrificio piemontese Menabrea, e da sempre ha radici a Biella, nel centro storico della città. Oggi il fatturato annuo è di 21 milioni di euro, 31 sono i dipendenti e nel 2009 si sono venduti 150.000 ettolitri di birra. Ma le sue vicende hanno inizio prima ancora dell'Unità d'Italia, quando Biella apparteneva ai Savoia. Il signor Welf di Gressonei e i fratelli Antonio e Giambattista Caraccio, nativi di Bioglio, e caffettieri in Biella, fondano un laboratorio per produrre birra. Nel 1854 i proprietari della birreria la affittano a Jan Josef Menabrea e Antonio Zimmermann, entrambi di Gressonei, già titolari in Aosta di una fabbrica di birra, la Birra Zimmermann di Aosta, e 10 anni più tardi i due valdostani la acquistano per 95.000 lire. In seguito gli interessi di Antonio Zimmermann gravitano sempre più su Aosta, per cui esce dalla società. Il 6 luglio del 1972 viene costituita un'altra società, la G. Menabrea e figli, fra Giuseppe e i figli Carlo e Alberto, di appena 19 anni. Da allora la fabbrica di birra è sempre stata gestita da discendenti di Giuseppe, fino all'attuale generazione, quella di Paolo Tedi, che così racconta le origini. La cosa più divertente è che si produce birra nello stesso luogo dove è nata nel 1846, quindi c'è anche un fascino di questa birreria che non riprende solo l'archeologia industriale ma un legame forte con quello che è il territorio biellese. La tradizione arriva chiaramente da delle famiglie valdostane che ancora prima del 1846, Jean-Joseph Menabrea prima, poi chiamato dopo l'Unità d'Italia, Giuseppe Menabrea e Anton Zimmermann, producevano birra ad Aosta. Nel locale di Biella, locale in quanto era una piccola ghiacciaia, iniziarono a creare un piccolo laboratorio per la produzione della birra, che andò avanti per qualche anno, se non che nel 1856 le famiglie di Aosta, quindi Menabrea e Zimmermann, prima affittarono e poi acquisirono questa location per la produzione della birra. Erano già dei birrai affermati, trasferirono una parte della loro produzione su questo territorio biellese. Nel 1881 muore il patriarca Giuseppe e l'impresa continua la sua crescita inarrestabile. Produce una birra bionda tipo Pilsner e una scura tipo Monaco. Quest'ultima viene apprezzata anche dal ministro delle finanze e fondatore del club alpino italiano Quintino Sella. Ma come spiega Franco Tedi, c'è una ragione ben precisa e molto particolare per questo successo. Ritengo perché Biella è un distretto industriale tessile riconosciuto e un distretto industriale tessile grazie anche alla qualità dell'acqua, oltre che all'imprenditorialità dei biellesi. E l'acqua è una materia prima fondamentale per la produzione della birra. Noi peraltro siamo situati proprio ai piedi della montagna d'Europa e utilizziamo questo tipo di acqua che è particolarmente leggera per la produzione della birra e allo stesso tempo idonea anche al trattamento dei tessuti, delle lane e dei cashmere. Dopo la morte di Carlo Menabrea, la vedova Eugenia Squindo e le sue 3 giovani figlie, Albertina, Eugenia e Maria, per portare avanti la conduzione della birreria, la affittano al fratello Pietro, che la gestisce con oculatezza fino alla morte della sorella. Poi arrivano i 2 cognati, Emilio Tedi e Agostino Antoniotti, mariti di Eugenia e Albertina Menabrea, che fondano una società che prosegue l'attività di produzione birraria. E nell'intreccio di famiglie entra anche il cognome di Franco Tedi. L'avventura biellese continua con dei passaggi generazionali all'interno delle famiglie, se non che il collegamento col mio nome di provenienza, comunque anch'esso valdostano, e la famiglia Menabrea è dovuto al matrimonio tra Carlo Tedi ed Eugenia Menabrea, figlia appunto di Giuseppe Menabrea, fondatore del birrificio. Intorno al 1900 arrivano i primi riconoscimenti internazionali. Tra gli altri, la birra di Biella riceve in serie la medaglia d'argento e poi d'oro all'esposizione di Torino, il diploma d'onore e croce di Digione in Francia, a Monaco, in Germania e a Gand, in Belgio. Conquista il Grand Prix all'esposizione universale di Parigi, 4 Gran Premi e altrettante medaglie d'oro durante le esposizioni di Milano, Roma, Bruxelles e Parigi. Un tempo, parliamo di 100 anni fa, 150 anni fa, la birra Menabrea era chiaramente una birra artigianale, no? un piccolo artigiano produttore di birra. Oggi è un impianto industriale dove la componente umana è veramente ancora oggi fondamentale. Questo è un legame tra la cultura, la tradizione del passato e la passione di fare birra. All'interno di dello stabilimento di Biella noi abbiamo si sente ancora il profumo della passione, della produzione, della cultura. La storia di Menabrea è quindi un susseguirsi di passaggi generazionali. Anche molto traumatici, nel senso che con delle scomparse premature dei condottieri di queste piccole realtà industriali, fino ai giorni d'oggi dove ci troviamo con una sesta generazione a capo di una piccola birreria industriale. Negli anni 30 l'azienda acquisisce prestigiosi locali pubblici a Torino e a Novara, che diventano ben presto punti di riferimento per la buona società locale. Ma la sede storica rimane a Biella, legata a tradizioni antiche. La cosa principale, forse, che è ancora presente è la nostra ghiacciaia, dove è nata la prima cotta, la prima birra. Abbiamo costruito nel 96 una nuova cantina di fermentazione, no? Senza voler andare a intaccare la parete esterna di una parte di questo edificio, sul quale viene riportata una teca della Madonna d'Europa, che noi riteniamo che sia un po' la nostra protettrice, in quanto è stata sito in cui la Madonna d'Europa, durante un suo pellegrinaggio, quindi una teca che ricorda un pellegrinaggio della Madonna d'Europa, no? Sulle fabbriche biellesi, la Menabrea è stata la prima che è stata visitata durante questo pellegrinaggio della Madonna d'Europa. Quindi abbiamo anche delle vecchie immagini storiche che riprendono questo momento di transito, di pellegrinaggio della Madonna, con tutte le maestranze e chiaramente sotto questa teca che ricorda questo passaggio. È un messaggio molto importante, però è al centro del nostro cortile, al quale noi teniamo in modo particolare. Negli anni 80 l'azienda decide di affiancare al suo tradizionale prodotto anche birre di importazione inglese e tedesca. E negli anni 90 il birrificio alla cui guida siede Paolo Tedi entra a far parte del gruppo Forst, ma non viene a mancare il legame con il territorio. Oggi stesso questo legame è ancora più sentito, perché comunque oggi sempre più la necessità di collegare il proprio territorio, i propri prodotti, alla propria immagine, alla propria imprenditoria è fonte probabilmente di successo e di crescita. Nel 2005, con la scomparsa di Paolo, assume la conduzione dell'azienda Franco Tedi, quinto discendente, con la carica di amministratore delegato. Ecco come racconta il suo ingresso in azienda. Io ho sempre amato e professato la professione del birraio per il mio futuro, per la mia vita. Fin da bambino passavo le estati a fare l'operaio di linea, no? Ho lavorato un po' in tutti i reparti, come fanno tanti figli di imprenditori, no? Un po' perché magari a scuola uno non andava proprio bene, come punizione, un po' perché comunque il piacere di poter condividere questa passione con la propria famiglia era fonte di orgoglio, se non che ho avuto anche le mie esperienze esterne, non formative, e poi sono tornato all'interno dell'azienda con i vari ruoli fino alla prematura scomparsa di mio papà e quindi la successione nella sua posizione di amministratore delegato. Ingresso segnato da un forte messaggio, indelebile per Franco Tedi. Essere stato cacciato un giorno dal lavoro in quanto mi sono permesso di scherzare con degli operai durante un ciclo di produzione. Penso che questo sia stato forse un primo ricordo che non dimenticherò mai, un insegnamento fondamentale. Messaggi forti che hanno guidato l'azienda anche nei tempi di crisi e nelle caratteristiche della produzione della birra. Il settore dell'alimentare, diciamo, non ha vissuto le problematiche della crisi di altri settori, quindi io mi ritengo abbastanza fortunato in un momento in cui comunque siamo un prodotto di nicchia, un brand di nicchia con una produzione anche limitata, minore rispetto ai grossi gruppi, oggi questo ci ha facilitato. Produrre il doppio non sarebbe difficile, basta qualche accorgimento tecnico, qualche investimento e uno è in grado di produrre anche il doppio di quello che noi oggi facciamo. Il problema è che bisogna anche saperlo vendere, bisogna saperlo vendere bene. Bisogna anche saperlo vendere nei momenti di difficoltà e nei momenti invernali. La birra è ancora oggi un prodotto molto stagionale. Noi puntiamo il nostro punto di forza è la birra in fusto, quindi la birra alla spina, che oggi si assesta intorno al 67% della nostra totali volumi, cosa che il mercato ne recepisce non oltre il 15%. Quindi per noi il core business dell'azienda è la birra in fusto. E questo vuol dire grandissima stagionalità. Triplichiamo durante il periodo estivo anche le vendite. Ma nonostante l'impegno in azienda, il bilanciamento tra vita e lavoro è possibile per Franco Tedi. Prima di sposarmi, qualcuno disse a mia moglie: ricordati che è difficile sposare un birraio. Ecco, in quanto vede sempre come suo obiettivo il proprio prodotto. Forse io devo solo dire grazie alla comprensione della mia famiglia, no? Per quello che accettano della mia vita, del mio stile di vita. Stamattina quando sono partito, mia figlia al telefono mi ha chiesto perché parto sempre prima che lei si svegli il mattino. Quindi questo sono dei momenti particolari, no? Che ti fanno riflettere. Comunque sia, parte della propria vita si fa anche basata sul lavoro. E devo dire che forse con un po' di comprensione comune si riesce anche a condividere dei momenti di felicità di lavoro e familiari allo stesso tempo. Le microbirrerie proliferano e Franco Tedi spiega quando si parla di birra di qualità industriale e artigianale. In due parole, una miscela di materie prime che per noi sono malto d'orzo, il mais con l'acqua, no? Aromatizzate grazie all'effetto dei luppoli, no? E fermentate grazie all'effetto del lievito. Da qui abbiamo tutto un processo, una ricetta che porta a produrre il tuo prodotto. Quindi ogni birraio ha le sue ricette, ogni birraio ha le sue caratteristiche nelle ricette e anche nell'utilizzo delle materie prime e delle varie tecnologie. Oltre a risvegliare una passione in alcuni consumatori di Menabrea, come nei confronti di una squadra del cuore, Franco Tedi tiene alla qualità, come fanno gli imprenditori tessili della sua zona. Qualcheduno un tempo ci definì la Ferrari delle birre, forse si addice di più il cashmere, la sartoria, proprio perché veniamo da un distretto tessile. Questo penso che vesta pennello. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.